Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 10 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, sviluppi non solo nell'inchiesta su Formigoni, già il nostro GR24 vi ha ampiamente aggiornato, comunque torneremo, ma sviluppi, dicevo, soprattutto sull'inchiesta che stiamo seguendo da mesi, perché ce ne occupammo tra virgolette per primi quando la procura iniziò la sua indagine. Mi riferisco a Banca Marche. Da un lato l'affare si complica, potremmo dire, perché secondo l'accusa della procura, ai vertici di Banca Marche avrebbe operato un'associazione per delinquere vera e propria, ex presidenti ed ex amministratori che a vario titolo si sarebbero resi responsabili di appropriazioni indebite. Ricordo che è stata commissariata dalla Banca d'Italia la Banca Marche, la semestrale del 2013 aveva una perdita di 233 milioni, ma complessivamente i crediti che difficilmente potranno rientrare in Banca Marche ammontano a 3 miliardi e 400 milioni come conseguenza, soprattutto secondo l'accusa, dell'allegra gestione dei vertici a partire dalla direzione di Massimo Bianconi. Ancora bilanci truccati per incassare i bonus da parte dei manager, dei top manager di Banca Marche. Parleremo di quello, parleremo anche del toto nomine. Non è un tema che mi appassioni tantissimo, però è chiaro che devono arrivare i nuovi vertici di Eni, Enel, Finmeccanica, ce ne stiamo occupando da giorni. Questo all'interno però anche della nuova ridefinizione dei salari, come deciso, dei salari, degli stipendi dei manager della pubblica amministrazione, con la nuova soglia che è quella dello stipendio del Presidente della Repubblica. Attenzione, non vale per le società quotate, l'abbiamo già detto, e anche per le società che emettono obbligazioni. Parleremo anche di telecomunicazioni, o meglio di RAI. Oggi il Consiglio di amministrazione della RAI ha approvato il bilancio 2013, un utile netto di 5 milioni di euro, ma parleremo anche di quello che si sta muovendo nel mondo della televisione, perché dopo l'accordo Vodafone Mediaset c'è un nuovo accordo Telecom Italia e Sky per una TV via internet, ossia si potrà guardare dal 2015 tutti i programmi delle reti Sky via internet, quindi una rete di nuova generazione che, da quello che abbiamo capito, andrebbe anche a sostituire la parabola. In apertura la Grecia, domani da questo punto di vista arriverà Angela Merkel in Grecia, oggi profondi e anche drammatici scontri ad Atene, nel giorno in cui il tesoro greco però ha emesso, è tornato sul mercato, la Grecia è tornata a emettere obbligazioni, non lo faceva da quando era iniziata la crisi, ha collocato un BTP, diciamo così, greco, con scadenza 5 anni dall'importo di 3 miliardi di euro, il rendimento al 4,95%, fortissima la domanda, oltre 20 miliardi di euro di richiesta, proveniente da 550 soggetti, di cui il 90% all'estero. È messo sotto la legge inglese, quindi mette al riparo gli acquirenti da eventuali ridenominazioni di valuta o ristrutturazioni. Collocato dalle principali banche mondiali, ripeto, la domanda ha sfiorato i 20 miliardi di euro per un'offerta di 3 miliardi di euro. E visto che parliamo di mercato, la borsa, meno 1,14% Milano, meno 0,50 Parigi, meno 0,40 Francoforte, più 0,13 Londra e meno 0,34 il Dow Jones, l'America. Perché Milano peggio di altre? Perché le banche, che da noi pesano parecchio, vanno male. Monte dei Paschi perde il 4,37%, UbiBanca perde il 4%, il Banco Popolare il 3,15%, nel giorno in cui si è chiusa la contrattazione sui diritti per l'aumento di capitale, Azimut meno 2,90% e Popolare Emilia Romagna meno 2,70%. Negativa in maniera sensibile anche Mediaset, meno 2,60, A2A meno 2,5, Enel meno 2,40, Atlantia meno 2,20, Autogrill meno 2 1%, chi guadagna oggi Saipem il 2,72% e di nuovo in recupero Ferragamo più 1,34% e Iux più 1%, Telecom più 0,70%, qui ci sono indiscrezioni di stampa, nel caso specifico è il Wall Street Journal, sulla cessione di Team Brasil, questa Telecom novella, come l'abbiamo chiamata noi in questi mesi. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook, le altre notizie in breve. Non sono buoni i segnali che continuano ad arrivare dalla Cina. Oggi il governo ha ammesso che c'è un pesante rallentamento della crescita in Cina, ancora una volta per colpa, diciamo così, dell'export in netto rallentamento. E a rafforzare questa prospettiva hanno contribuito anche le dichiarazioni del premier Keqiang, che ha non solo escluso interventi di stimolo, ma ha anche ammesso la possibilità che quest'anno non si raggiungono gli obiettivi ufficiali di crescita annua. Le esportazioni cinesi nel mese di marzo hanno subito un calo del 6,6%, mentre le importazioni hanno avuto un calo dell'11%, e quindi il surplus, la differenza tra esportazione e importazione, si è chiuso con 7 miliardi e 700 milioni, che può sembrare tanta roba, ma in realtà è poco rispetto al mese precedente, quando il surplus commerciale cinese era stato di c'era stato un deficit commerciale cinese di 23 miliardi. Devo dire che anche il dato di ieri sull'export tedesco segnalava una difficoltà sui mercati emergenti, e sicuramente la Cina è il principale di questi. Continuano invece gli ottimi segnali dall'economia americana, le richieste di sussidi di disoccupazione sono scese a nuovi minimi, a minimi dal 2007. È un dato nettamente migliore delle stime, mentre l'Europa continua a, diciamo, galleggiare su questa ripresa lenta, lentissima, una ripresa che in molti paesi sarà priva di occupazione, gli americani la chiamano jobless recovery, cioè cresce un po' ma non riesce a riassumere. E oggi di nuovo il Consiglio della Banca Centrale Europea si è detto unanime nell'impegno a ricorrere anche a strumenti non convenzionali contro i rischi di un periodo di bassa inflazione. Le ipotesi qui sono o tassi ancora più bassi, tassi in negativo, tassi che rendono più conveniente prendere i soldi a prestito e meno investirli nell'overnight. Dall'altro il famoso, per alcuni famigerato, per altri benemerito, quantitative easing, e quindi la possibilità di iniettare liquidità nel sistema attraverso l'acquisto di titoli di Stato o delle banche o del titolo di Stato o di titoli di soggetti privati. Invece in Svezia, che è fuori dall'area euro, si intensifica la spirale deflazionistica, i prezzi del consumo sono calati dello 0,6% rispetto all'anno prima, contro un meno 0,2% di febbraio. E sarà un caso, ma da quando Mario Draghi ha risposto in maniera un po' piccata al Fondo Monetario dicendo apprezziamo i consigli, vorremmo che li desse a tutti la Lagarde i consigli, non solo a noi, beh, non abbiamo mai visto una Lagarde così prodiga di consigli verso la Banca Centrale Europea. Oggi torna il Fondo Monetario a dire c'è una bassa inflazione nell'area euro, occorre un allentamento monetario, l'economia riprenderà lentamente, soprattutto nei paesi sotto stress. E continua la Lagarde, dovete fare un ulteriore allentamento monetario. Io faccio notare che i tassi sono vicini allo zero, per cui non capisco cosa possa servire dallo 0,5 passare allo zero, però se non ripartono i consumi puoi anche fare meno uno, ma la gente non spende. O ci mettiamo in testa, mi avviso, che non è solo la politica monetaria, ma a questo punto è anche, sono tutti i vincoli di bilancio prociclici, cioè che vanno a aumentare la recessione, che non fanno spendere i cittadini. Però vedo che l'approccio del fondo monetario è proprio da fondo monetario, la politica monetaria può tutto, in realtà avessero il coraggio o dovrebbero avere il coraggio di dire che il problema dell'area euro non è solo la politica monetaria, i tassi bassi, sono i parametri di Maastricht che vanno, secondo la dottrina ortodossa, rispettati in maniera pedissequa e obbligano i governi a ridurre investimenti e aumentare le tasse, oltre che a tagliare le spese. Quello, per carità, è anche un elemento positivo, ma insomma ci sarà un motivo, ci sarà una ragione che non si chiama euro se l'unica area economica che non si riprende o che si riprende lentamente è quella gestita dai parametri di Maastricht? Chiedo. Vabbè, andiamo all'Italia. Il Tesoro ha fatto il pieno dell'asta di botta a un anno, il tasso è ai minimi, venduti 7 miliardi e mezzo allo 0,589%, e li ha collocati tutti. Questa è una buona notizia per l'Italia, ci costa molto poco trovare finanziatori per il nostro debito anche a un anno. E infatti il Ministero dell'Economia fa sapere che quest'anno pagheremo in meno di interessi sul debito 9 miliardi, la spesa per gli interessi cala di 9 miliardi. Ora, 9 miliardi sono più di mezza manovra finanziaria, sono più di un mezzo punto di PIL o mezzo punto di PIL. E questa è la differenza tra le stime di Saccomanni e invece quelle contenute dal suo successore Padoan. Devo dire che sono d'accordo con Stella, è veneto e si pronuncia Padoan, così come Lorenzin, la pronunciamo Lorenzin, anche se non è cresciuta in Veneto, se no dovremmo dire Lorenzin e Padoan, Padoan e Lorenzin, fine. Il ministro Guidi, intanto ministro dello sviluppo economico, dice: Confindustria fa bene a pungolare, a chiedere sempre di più, ma per quello che riguarda le imprese il pacchetto è più ampio. Questo dopo il commento di Viale d'Astronomia che, pur dicendo che la manovra, che il DEF va nella direzione giusta, ha chiesto di essere meno timidi nelle misure sulle imprese. Allora, nel mese di febbraio l'indice della produzione industriale è sceso rispetto a gennaio dello 0,5%, è salito invece rispetto al trimestre precedente, ma il Centro Studi Confindustria si attende a marzo una ripresa, un recupero della produzione industriale più 0,7%, e anche l'ANCE, l'Associazione dei Costruttori, e devo dire che le costruzioni sono state il settore forse più massacrato in assoluto dalla crisi, nota timidi segnali di ripresa nel 2014, i mutui, c'è un maggior numero di soldi erogati dalle banche per i mutui, più 18,5%. Allora, due vicende che riguardano invece l'occupazione. Da un lato la Grati ha confermato la chiusura dello stabilimento di Collegno in provincia di Torino, dove lavorano 82 persone, nonostante i tentativi di mediazione da parte del Ministero e le proposte dei sindacati, lo ha reso noto la FIOM. Dall'altro c'è un'ipotesi di accordo sull'avvertenza Micron, un'ipotesi che è arrivata nella notte al Ministero del Lavoro, prevede la riduzione degli esuberi. La Micron, o Micron per chi vuole dirlo in inglese, è una multinazionale di microelettronica, e quindi gli esuberi andrebbero da 419 a 320 unità, mentre la ST Microelectronics ha dato la sua disponibilità ad assorbire 170 lavoratori, e a Catania gli esuberi invece della Micron passerebbero da 127 a 39 unità. La nostra Anna Marino ha raggiunto il segretario generale della UGL Maria Antonietta Vicaro, che parla di un accordo soddisfacente. La trattativa, che è durata fino a tarda notte, ci ha portato comunque ad un accordo soddisfacente, che verrà adesso sottoposto alle assemblee dei lavoratori, a cui seguirà un referendum, e che porta con sé comunque la riallocazione quasi totale dei lavoratori. Un anno di cassa integrazione nel quale l'azienda provvederà a riallocare gran parte dei lavoratori, ST Microelectronics si è presa l'impegno di ricollocarne alle stesse condizioni retributive e normative 170 distribuite sui vari siti, e quindi un accordo che comunque posiziona Micron sul territorio nazionale con un impegno sui 3 anni a mantenere il piano industriale, 20 milioni di dollari di investimenti e quindi almeno per questo triennio garanzie occupazionali. E come è stato possibile raggiungere un accordo dopo tutto questo tempo? È stato un provvedimento del governo o altro? Le procedure di mobilità che è stata aperta 75 giorni fa prevedono che ci siano appunto 75 giorni durante i quali provare a trovare le soluzioni. È stato decisivo l'intervento finale del governo, del Ministero dello Sviluppo Economico e comunque del Ministero del Lavoro, una cabina di regia che ci ha consentito di trovare, ripeto, soluzioni alternative ai licenziamenti e che comunque è stata a fianco dei lavoratori e dei sindacati proprio per trovare queste soluzioni. Di mare con questa nuova base di oggi, magari di Sardegna, magari di una villa in Sardegna. Lo dico perché insomma hanno sequestrato i giudici di Milano, chiaro che vige la presunzione di innocenza, beni equivalenti a 49 milioni di euro all'ex presidente della regione Lombardia Roberto Formigoni. Ora uno mi può anche dire che sono i risparmi di una vita. Ma cavolo, 49 milioni di euro è tanta roba per uno che ha fatto per lungo tempo, poi il giudizio politico è un'altra cosa, ognuno può avere il suo. Insomma, il presidente di una regione, 49 milioni di euro, non so quanti di noi potrebbero metterli da parte, magari un'eredità, magari sono gli amici, non lo so. Comunque, hanno sequestrato 49 milioni di euro equivalenti al presidente, all'ex presidente della regione Lombardia, Roberto Formigoni. Dopo che i giudici di Milano avevano rinviato giudizio Formigoni insieme al suo amico Alberto Perego e agli intermediari Pierangelo Daccò e Antonio Simone con l'accusa di corruzione e associazione a delinquere per il presunto scandalo Maugeri. In particolare 39 milioni sarebbero per la presunta corruzione legata alla vicenda Maugeri, mentre 7 milioni e 600 mila per la presunta mazzette del caso San Raffaele. I sequestri riguardano i conti correnti intestati a Formigoni, una serie di immobili a Lecco e a Sanremo, di cui il senatore risulterebbe come proprietario, e una villa in Sardegna, da qui la nostra base. Non sono stati sequestrati invece, come prevedono le prerogative parlamentari, i conti di Formigoni riguardanti le sue attività di senatore. Formigoni ha risposto: non ho posseduto neanche la centesima parte di 49 milioni di euro su uno dei miei conti correnti, dei miei due conti correnti, ha spiegato Formigoni, figura un attivo di 18,20 euro, sull'altro un passivo di 75.000 euro, e ho 3 auto, un Alfa Mito del 2012, una Panda del 2009, una Multipla del 2008 in dotazione ai miei collaboratori. Continua Formigoni: non ho mai posseduto né posseggo una casa in Sardegna. Le proprietà immobiliari che ho sono un micro appartamento nelle periferie di Sanremo e 3 appartamenti a Lecco di 400 metri quadri complessivi, ereditati dai miei genitori e di cui condivido le proprietà con i miei 2 fratelli. Oh, il mistero è di chi è sta vita in Sardegna, però noi crediamo a Formigoni. È un paese in cui le case uno non sa se gliele comprano senza informarlo e quant'altro, però insomma sta villa, diteci di chi è, ci trasferiamo in programma quest'estate, le basi le abbiamo, lo spirito pure. Invece il governatore del Piemonte Roberto Cota ha versato alla regione 32.000 euro a titolo di indennizzo nell'ambito dell'inchiesta sui rimborsi facili. Il denaro versato corrisponde alla somma contestata dalla procura al governatore per i rimborsi di mutande, viaggi e spese varie, più il 30% della somma stessa a titolo di risarcimento per il danno d'immagine provocato alla regione. Cota avrebbe versato il denaro per ottenere condizioni più favorevoli nel processo contro di lui che si terrà il 21 aprile. Ieri è iniziata a Torino l'udienza preliminare dell'inchiesta. Ricordo che l'intera amministrazione regionale piemontese è accusata di aver speso 1,5 milioni di euro senza motivo. Non è il totale dei rimborsi, è il totale dei rimborsi contestati. Ricordate, no? Campanacci per le mucche, guardaroba di firma, elettrodomestici. I vari politici, non tutti, alcuni avrebbero già restituito alla regione 300.000 euro, altri 300.000 starebbero comunque arrivando. A casa mia ne mancano 900.000, ma siamo fiduciosi. No, lo dico nel giorno in cui si è dimesso il ministro della cultura britannico, la conservatrice Maria Miller, nonostante avesse restituito 5.800 sterline al ministero del tesoro, era accusata di rimborsi spese non giustificabili e non giustificati. Aveva presentato come rimborso sulle sue spese per il mutuo riportate senza averle aggiornate alle ultime disposizioni. Insomma, si è dimessa, ha detto, nonostante abbia ridato i soldi, ormai il danno che ho creato al governo Cameron e il fatto che il mio caso rischi di diventare una distrazione per il governo e per l'intero partito conservatore fa sì che io mi dimetta. Ogni commento è superfluo. E invece è vita dura anche per i reali, per i re. Il Belgio ha tagliato via le spese inutili, comprese quelle della famiglia reale, via la scorta, le limousine, le auto con autista. Restano solo ai reali in senso stretto, cioè il re Filippo e sua moglie e l'ex re Alberto, la moglie Paola. Anche per loro si cerca di risparmiare, tutti i fratelli del re perdono i benefit reali. Astrid, chi è Astrid? Si chiamano uno Laurent e l'altro Astrid. Astrid lo scorso marzo ha dovuto guidare da sola con la sua auto per recarsi ad un evento di beneficenza contro la tubercolosi, nonostante rientrasse nelle attività che da sempre svolge per il Palazzo Reale. Ce ne faremo una ragione. Ce la può fare anche Astrid ad andare a un evento di beneficenza per la tubercolosi guidando da sola e non con l'autista. (349) 238 6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Adesso c'è il meteo, la pubblicità e poi partiamo subito con la Grecia. Buona notizia sul fronte del debito, brutte notizie sul fronte delle tensioni. Domani arriva Angela Merkel, nessuna battuta. (17:37) di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. C'è chi mi scrive: non faccia lo spiritoso, penso si riferisca alla villa di Formigoni. Lei pensa di essere migliore con la sua prosopopea radical chic. Non so perché, cosa vuol dire prosopopea radical chic, faccio pena, va bene, questa è un'opinione. L'abbiamo messa sul ridere perché sennò ci sarebbe da essere molto molto seri, no? Cioè, come? I giudici di Milano sequestrano 49 milioni di euro, tra cui una villa. Formigoni dice che la villa non l'ha mai avuta, che non ha mai avuto 49 milioni di euro. Ma allora, a chi li hanno sequestrati? A me? A Vittorio D'Arold? Al tecnico di regia? A chi li hanno sequestrati? Boh. Magari, dice Vittorio D'Arold. No, magari no. No, magari no, ma qua, chi? Allora, parliamo di Grecia invece, perché oggi era molto atteso, da un lato, il collocamento di questa obbligazione in Grecia. La prima volta che la Grecia tornava sul mercato ed è stato un successo, lo dico senza enfasi, per collocare 3 miliardi di euro di BTP greco a 5 anni le domande sono arrivate a 20 miliardi di euro, oltre 550 soggetti di cui la stragrande maggioranza, 500 su 550, erano esteri. Il sindacato di collocamento era composto da Bank of America, Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan e Morgan Stanley. Oh, quando c'è da collocare il debito greco, i greci non puzzano più, No, anche per i tedeschi, che Deutsche Bank si è subito, così come quando c'è da vendere i sommergibili o quando c'è da fare operazioni poco trasparenti con la Siemens, lì la Grecia non erano diciamo olive belt, non apparteneva alla cintura dell'olio d'oliva come chiamano i paesi del nord, noi del sud. Faccio notare solo che pecunia non olet. Ancora un modesto segnale positivo arriva anche dal mercato del lavoro in Grecia, che pure mantiene una disoccupazione a livelli elevatissimi, al 26,7%, un po' in calo però rispetto al 27,2% di dicembre, anche se tra i giovani la fascia dei senza lavoro è vicina al 60%, 56,8%. Ma nel frattempo è esplosa una bomba davanti alla Banca di Grecia e domani arriva Angela Merkel. Vittorio D'Arold, buonasera. Buonasera a voi. Iniziamo a scremare queste notizie. la richiesta di debito greco è andata oltre ogni previsione. Assolutamente, è un successo. Guarda, per la prima volta posso usare la parola storico. Qui è la fine di un ciclo e se ne riapre un altro. Un po' veramente in qualche modo ha sorpreso tutti, un rendimento 4,95, cioè sotto il 5%, non se l'aspettava nessuno, un collocamento che era partito così in sordina 2 miliardi e mezzo, perché c'è il gap fiscale da punto finanziare, 3 miliardi, un interesse ordini per 20 miliardi, quindi c'è veramente un po' l'effetto trascinamento. Anche quello che la Grecia ha dovuto pagare è poco, se pensiamo che la Grecia, lo dico con massimo rispetto, il 4,95%, voglio dire, l'Italia pagava molto di più quando nel 2011 e 2012 era sotto attacco l'Italia e il debito italiano per trovare finanziatori. Quindi il fatto che la Grecia abbia dovuto offrire solo il 4,95% di rendimento lordo per trovare dei finanziatori è veramente una buona notizia per i greci e in generale, a mio avviso, anche per l'euro. Sì, effettivamente è una svolta perché anche per l'euro, perché come ricorderai era 4 anni fa, era tutto cominciato lì, quindi nel marzo del 2010 la Grecia esce dai mercati, l'ultima emissione era appunto al 6,10% di rendimento, oggi rientra a 4,95, quindi in qualche modo in queste due cifre c'è proprio la svolta storica. Allora uno potrà dire, ma com'è successo tutto questo? Sì, molti ascoltatori, e devo dire che non ha torto, dicono sì, attenzione, c'è una tale fame di rendimenti, visto che i rendimenti nostri sono italiani, anche spagnoli, sono i minimi storici, nel caso del BOT italiano oggi è un anno, ma anche nel caso dei BTP italiani, che si va a comprare anche Grecia, anche perché qui un trucchetto c'era, va detto, ossia il collocamento è stato messo sotto la legge inglese, quindi metterà al riparo tutti quelli che hanno comprato questo titolo di Stato da eventuali ristrutturazioni, vuol dire, diciamo, se dovesse tagliare, come ha già fatto la Grecia, il famoso haircut, quindi ridare meno soldi ai suoi creditori. Però se tu vuoi comprarli e hai un profilo che è stato molto, molto rischioso, te li puoi comprare anche tu risparmiatore. Quindi insomma, in qualche modo queste banche poi, che ricordiamo è stata un'asta sindacata, quindi sì, certo, se la coprivano loro, in ogni caso c'era un paracadute. E il fatto che ci fosse Deutsche Bank, in qualche modo la più grande banca tedesca, vuol dire che insomma la Germania ha deciso di rompere questo fronte, quindi per aprire alla vigilia dell'arrivo del cancelliere ha voluto dire: questo è il risultato della nostra politica, sì di austerity, ma vedete anche di aiuti concreti, non vi diamo, come si era parlato, il ministro delle finanze tedesco Wolfgang Schäuble voleva dare il terzo bailout, voleva dare un altro aiuto, ma poi la Merkel ha visto i sondaggi, ha visto che quel piccolo partito che gli sta alla destra, alla sua estrema destra, questa Alternative for Deutschland, che alle europee, per un'incauta sentenza della Corte Costituzionale tedesca, perché qui la legge europea si va al voto con le stesse leggi, ma poi ogni paese le può modificare. La sentenza della Corte Costituzionale ha eliminato la soglia di sbarramento, quindi in Germania anche con pochi voti queste Alternative for Deutsche possono mandare i deputati, e questo qui aprirebbe il caso che quando hai un deputato al Parlamento di Strasburgo puoi rimettere in discussione tutte le decisioni che prendono al Bundestag. Dunque la bomba, finora non rivendicato l'attentato davanti alla banca di Grecia, è arrivata in maniera molto simbolica nel giorno in cui la Grecia torna sui mercati internazionali, seppur diciamo con un minimo di protezione, e alla vigilia dell'arrivo di Angela Merkel. Anche la Christine Lagarde, numero uno del Fondo Monetario Internazionale, ha detto la Grecia è sulla strada giusta. Però vuol dire, il rischio che le tensioni sociali restino è altissimo, anche perché l'arrivo di Angela Merkel, un ascoltatore con un bel po' di ironia dice: Angela Merkel va in Grecia a godersi un'alba dorata, non male, non male come battuta, però insomma, che cosa va a fare domani Angela Merkel in Grecia? Va a rassicurare il governo traballante di coalizione di Anthony Samaras, sì, e del PASOK, che hanno solo due deputati di maggioranza nella Camera greca, e quindi dopo tutte queste riforme, le ultime sono state appunto quelle durissime di liberalizzazioni, di licenziamenti negli statali, mobilitazioni eccetera, ormai è rimasto con due deputati di maggioranza, quindi la situazione è molto critica. Alcuni sondaggi dicono che la sinistra radicale di Syriza potrebbe addirittura superare alle prossime elezioni Samaras, e questo non avrebbe ripercussioni immediate, però sarebbe la prima volta che un partito anti-europeo vince delle elezioni in un paese dell'area euro. Ecco, su questo speriamo che la Merkel aiuti veramente Samaras, perché ricordiamo l'aiuto che diede a Sarkozy, speriamo che questo non si ripeta, e speriamo che l'aiuto della Merkel non sia l'abbraccio mortale a Samaras, convincendo anche i due deputati. Non è che la Merkel e la Germania goda di grande stampa in Grecia, è anche comprensibile visto il modo in cui i tedeschi hanno trattato, in maniera a mio avviso anche irrispettosa, la stampa tedesca ha trattato la Grecia negli anni di maggiore difficoltà, per cui attenzione anche a questo. Grazie intanto a Vittorio D'Aroldi, domani grazie vedremo cosa arriverà dall'incontro e che tipo di abbraccio sarà quello di Angela Merkel con Samaras. Adesso andiamo alla borsa, c'è chi mi scrive: sei comunista, era per il re del Belgio, per quelli come te i re dovrebbero essere poveri, invece i ricchi devono fare i ricchi, i poveri devono fare i poveri, e lei cosa deve fare? Boh. No, guardi, abbiamo sempre difeso, adesso seriamente, e poi ne parleremo anche nella seconda ora, abbiamo difeso contro ogni populismo così un po' demagogico anche il fatto che i manager bravi vadano pagati bene, che esiste un mercato, vadano pagati bene, ma attenzione a rispettare anche le proporzioni. Quando ricordiamo che negli anni 70 i primi 100 manager delle prime 100 società americane avevano un rapporto rispetto ai loro dipendenti di 73 volte lo stipendio, nel 2007 il loro stipendio era passato tra bonus e tutto a 240 volte lo stipendio medio, io non penso che i manager degli anni 70 valessero meno dei manager degli anni 2000 in America come in Europa, per cui anche lì un po' di granussali sui re, facciano quello che vogliono i re, diciamo. A me piace più pagare chi ha dei meriti, che si è conquistato sul campo, e non chi è nato re. Però voglio dire, se vogliamo iniziare a parlare anche dei re, parliamo dei re, delle principesse, delle regine. Di nuovo in diretta per commentare adesso la borsa, meno 1,33% Milano, meno 0,66 Parigi, meno 0,55 Francoforte, invariata Londra, meno 0,40 l'America. Di positivo tra i titoli maggiori c'è Saipem più 2,66, Ferragamo più 1,12, Moncler più 1, Jux più 0,90, Telecom Italia più 0,40, e invece negative tutte le banche. Monte dei Paschi meno 4,30, UBI Banca meno 4,10, Pop Emilia Romagna meno 2,70, Autogrill meno 2,60, Banco Popolare meno 2,14, Unicredit meno 2,11, il 2% lo perde invece Mediobanca, e la Pop Milano perde l'1,5% come Intesa San Paolo. Male anche A2A meno 3,11, Media 7-3%, Autogrill meno 2,60, Enel meno 2,50, Atlantia meno 2,20 come Prismian, Lex, Pirelli, Cavi, il 2% lo cede Buzzi Unicem. Eleonora Micheli, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, le banche tutte negative, come mai? Poi abbiamo dei casi specifici sul Banco Popolare e il Monte dei Paschi. Ma perché appunto oggi si è deciso di portare a casa i guadagni, fondamentalmente faccio riferimento a dei numeri, Piazza Affari da inizio anno guadagna quasi il 15%, Madrid quasi il 6%, Parigi attorno al 3%, ovviamente si va a prendere profitto, quindi non a caso Madrid e Milano oggi hanno registrato le performance peggiori, i bancari sono andati particolarmente giù, perché se mi mettessi a fare il resoconto di quanto hanno guadagnato da inizio anno, sono tra i titoli che hanno corso sicuramente di più. Sul Banco Popolare però oggi si sono chiuse le contrattazioni per i diritti dell'aumento di capitale, mentre Monte dei Paschi è in attesa. A questo punto iniziamo a fare il conto alla rovescia sull'aumento di capitale. e anche sull'ipotesi di un'obbligazione convertibile. Sì, no, oggi il Monte dei Paschi ha emesso un'obbligazione, un covered bond da 1 miliardo della durata di 7 anni. Il collocamento è andato bene, i titoli però in borsa hanno preso il contraccolpo. D'altra parte ricordiamo che le azioni del Monte erano salite molto e in prospettiva a breve dovrebbe essere lanciato l'aumento di capitale, ricordiamo, da ben 3 miliardi di euro. E dovrebbe essere il più consistente tra le banche che lanceranno l'aumento di capitale. Poi invece, come hai detto tu, il Banco Popolare oggi è l'ultimo giorno utile, era a questo punto l'ultimo giorno utile per trattare in borsa i diritti che comunque potranno essere esercitati entro il 17 di aprile, giorno in cui si chiude l'aumento di capitale da 1,5 miliardi. Ancora, per quello che riguarda i titoli, abbiamo notizie oggi sui giornali di nuove ipotesi perché Finmeccanica possa cedere Ansaldo CTS a Thales. Il titolo Finmeccanica si è mosso, vista la giornata, anche benino, più 0,30%. Vorrei un commento su Finmeccanica, ma anche su Saipem, che è il miglior titolo, più 2,66%. Su Saipem brevemente è stato un report di Chevre molto positivo che ha incoraggiato gli acquisti. Per quanto riguarda Finmeccanica, oggi il Corriere della Sera ha indicato l'ipotesi che la francese Thales sia sul punto di fare un'offerta sia su Ansaldo STS, che non a caso è salita dell'1,7%, sia su Breda. In verità l'azienda francese sarebbe interessata solo a Ansaldo STS, la sua concorrente, ma per essere sicura di ottenerne il controllo è disposta ad acquistare anche Breda, entrambe società che peraltro sono nel mirino anche di aziende cinesi. Comunque ovviamente alla borsa piace sempre il fatto che ci siano delle operazioni di dismissioni alle porte, e così ha premiato le azioni. Poi, come ha detto, più è più 0,29%, d'altra parte nel durante della seduta salivano molto, molto di più, con più convinzione, poi hanno frenato sul finale. Allora, ultimo tema, poi ne parleremo di Telecom Italia per l'accordo con Sky, abbiamo un approfondimento apposito su questo, non è solo Telecom ma anche Mediaset con Vodafone, però per quello che sì, lo facciamo dopo chiedo, dico in regia, dopo il GR24, però dicevo, Telecom oggi in realtà più sulla Telecom novela di Team Brasil. Esatto, Wall Street Journal ha rilanciato l'ipotesi che il gruppo brasiliano Oi sia interessato a lanciare un'offerta su Team Brasile, soprattutto alla luce del fatto che la scorsa settimana il gruppo brasiliano ha effettuato un aumento di capitale molto più consistente delle attese. E ovviamente questo ha riscaldato subito i titoli di Telecom Italia. Poi a metà giornata è arrivata la notizia che probabilmente si supereranno le parabole, quindi questo ovviamente ha sostenuto ulteriormente le azioni di Telecom, che erano arrivate a guadagnare oltre il 2%, poi hanno chiuso solo più 0,4%. Allora, nel ringraziarti, però vorrei dare una risposta a chi dice, ma insomma, dite sempre il prezzo di beneficio. No, nel caso del Banco Popolare del Monte dei Paschi no, però attenzione, se non ci sono notizie di rilievo, l'unico modo in cui puoi capire o ce le inventiamo per far contenti alcuni ascoltatori, oppure diciamo quello che vediamo, che sui titoli bancari che molto avevano corso si sono realizzate le prese di beneficio. Io altre notizie non ho visto, se le avete voi scrivetecele. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Come promesso, adesso ci occupiamo degli sviluppi su Banca Marche, e sono sviluppi negativi, e poi i conti della RAI, ma anche gli accordi Telecom Italia, Sky e Vodafone Mediaset, infine il toto nomine sui vertici e anche cosa cambierà sulle buste paga dei grandi manager dello Stato. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, Banca Marche. Abbiamo già raccontato ieri dello sviluppo, adesso da quello che capiamo ai vertici di Banca Marche, secondo l'accusa dei PM, avrebbe operato una vera e propria associazione per delinquere, ex presidenti ed ex amministratori che a vario titolo si sarebbero resi responsabili di appropriazioni indebite aggravate in danno di Banca Marche, della SPA Medio Leasing, il cui capitale è interamente detenuto da Banca Marche. Corruzione tra privati, falsi in bilancio, comunicazioni sociali, falsi in bilancio nelle comunicazioni sociali ed ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza. Questa è l'incolpazione principale dopo l'atto di decreto di perquisizione recapitato ieri all'alba, 12 fra i 27 indagati. Ricordo che Banca Marche è stata commissariata dalla Banca d'Italia, ha un buco di 3 miliardi e 400 milioni, o meglio crediti deteriorati per 3 miliardi e 400 milioni, che sono pari a 3 volte il capitale della banca. La gestione allegra dei crediti fa capo come vertice all'ex direttore Massimo Bianconi e sarebbe durata fino al primo semestre del 2012. Stefano Elli, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. E ci sarebbe oggi in questo sviluppo anche, sempre secondo i PM, l'accusa che i bilanci venivano truccati, oltre che per vari motivi, anche per accaparrarsi bonus, Stefano. Può essere che sia anche accaduto questo. Di fatto è certo che la retribuzione di Bianconi, anche nel momento più critico della condizione della banca, era piuttosto elevata. Al momento della sua uscita dalla banca percepì una buona uscita di 2,6 milioni. Tutto questo evidentemente non poteva riguardare soltanto lui, ma era una condizione che diciamo accomunava molti dei vertici apicali della banca, di cui 12 appunto sono finiti sotto il reato dell'associazione per delinquere. Ecco, qui ci sono due diverse, diciamo, se posso raggruppare le accuse. Da un lato false comunicazioni sociali e ostacolo a chi doveva vigilare, e che appunto pure ha vigilato, perché Banca d'Italia è stata molto presente nell'intero sviluppo della situazione, con 3 ispezioni, lettere mirate e oltretutto anche ispezioni incrociate, perché non dimentichiamoci che la storia della Banca delle Marche si incrocia con quella di Tercas, la cassa di Teramo. Ed erano arrivate anche alcune denunce di 2 consiglieri poi usciti. Però, dicevo, Stefano, c'è da un lato il tema della false comunicazioni sociali, chiamiamolo così, del falso in bilancio, per farsi capire da tutti. Dall'altro, però, c'è un altro tema che riguarda il modo in cui questi crediti venivano concessi, perché uno può dire, ok, ho 3 miliardi e 2 di crediti che difficilmente mi ritorneranno, però siamo in un periodo di alte sofferenze bancarie, è successo anche a altre banche, cioè non è che di per sé stesso avere dei crediti che diventano inesigibili, magari hai creduto a degli imprenditori e così, e le cose sono andate male, i progetti non sono sviluppati, la situazione economica è peggiorata e te li becchi come sofferenze. In realtà qui l'accusa è che questi crediti venivano, se ho ben capito, dati esplicitamente a persone che già sapevi essere difficilmente affidabili, mettiamola così. Ma i primi rilievi di Banca d'Italia, che datano 2010, danno conto proprio di questo, proprio della eccessiva discrezionalità e autoreferenzialità dei criteri adottati per l'erogazione dei crediti. Se posso permettermi, è una situazione che va a accomunarsi un po' a quella che sta succedendo con la BPM, la Banca Popolare di Milano, e l'inchiesta della Procura di Milano su Ponzellini, e anche su quella passata, ormai quasi andata in giudicato, della questione Italis, Banca Italiana, che riguardava Massimo Faenza, Massimo Ponzellini. Insomma. Per cui l'accusa non è tanto, lo dico a chi mi scrive, non è che tu abbia un numero di sofferenze, di crediti difficilmente esigibili così alto. Certo che non è un segnale di buona gestione, ma in quel caso magari mandi via il numero uno o i vertici, dici non avete saputo valutare correttamente l'erogazione del magari credito. Magari senza dargli 2 milioni di bonus, e questo mi sembra il minimo. Però il problema è che qua l'accusa è diversa, loro prestavano soldi fuori dal territorio, perché ricordiamoci che Banca Marche, noi siamo a favore dei popolari, del credito cooperativo, di chi investe, reinveste i risparmi raccolti sul territorio. Questi soldi, Stefano, non li prestava imprenditori marchigiani, che avrebbe avuto il grosso del buco non arriva dal fatto che tu hai finanziato l'economia reale marchigiana e poi la congiuntura è andata male. Qui l'accusa è altra. Anche perché tra gli indagati figurano Vittorio Casale, figurano altri imprenditori di altre disparate zone d'Italia, insomma. Quindi Ci chiedono molti ascoltatori se sono a rischio con i correntisti di Banca Marche. Niente affatto, la gestione commissariale ha disposto tutta la messa in sicurezza della banca, ma non soltanto, ci sono anche due notizie nuove che possono essere di qualche interesse. Risulta che i commissari della banca Giuseppe Feliziani e Federico Terrinoni abbiano disposto una richiesta di risarcimento dei danni a carico di tutti i membri del consiglio di amministrazione e collegio sindacale della banca dal 2006 al 2011. E questa è una notizia che potrebbe riguardare veramente una schiera di persone di tutto rispetto dal punto di vista numerico. Un'altra cosa interessante da notare è come la fondazione di Macerata, che ha tra gli azionisti, tra le tre fondazioni azioniste della banca, ha intenzione di citare per danni anche la società di revisione, la PricewaterhouseCoopers, che ha appunto certificato i bilanci di Banca delle Marche. Beh, in effetti, come abbiamo già visto, il primo caso clamoroso fu Parmalat. Qui c'è un problema del consiglio di amministrazione, dei vertici del consiglio di amministrazione, poi c'erano i collegio revisori, e dove cavolo era? Boh. E poi ci sono anche i revisori contabili, perché ho capito, se poi Pricewaterhouse avrà tutti i diritti di difendersi, ci mancherebbe, però insomma, se tu certifichi un bilancio, te lo fai anche pagare la certificazione, beh, se questa certificazione non riesce a capire che forse qualcosa di male, forse quantomeno, se non un giudizio della magistratura, ma un giudizio così professionale su cosa serve la certificazione in questi casi, oppure loro potranno rispondere che i bilanci, Stefano, erano così truccati che era impossibile capire quello che stesse avvenendo. Può anche essere che sia così, alla fine. Però voglio dire, come sempre, insomma, un dubbio resta anche sulla società di revisione. Ricordo che Banca Marche ha 312 filiali, 3.000 dipendenti, e ha come riferimento le fondazioni della provincia di Macerata, il 22%, di Pesaro, 22%, di Iesi, 10%, di Fano, il 3,3%. Grazie a Stefano Elli, e temo che questa vicenda non si chiuda qua. E 18 minuti. Allora, i conti della RAI, che chiude il bilancio 2013 con un utile netto di 5 milioni di euro, un MOL, un margine operativo lordo positivo per 170 milioni, l'indebitamento è a quota 441 milioni, ricavi in flessione di 38 milioni rispetto al 2012. RAI, che ricordo insomma, ha 10.470 dipendenti, di cui 500 dirigenti e 1.300 giornalisti, 14 canali TV, 5 canali radiofonici e 15 centri di produzione sul territorio. Marco Mele, del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, noi, buonasera. Pur avendo la RAI, la radio come concorrente, siamo contenti quando la RAI, a cui noi stessi paghiamo il canone, migliore conti. Era atteso un utile, finalmente un utile in RAI? Beh, era atteso, perché quando l'esercizio RAI riguarda un anno dispari, già nel 2011 aveva chiuso in pareggio. Il problema sono gli anni pari per la RAI, quelli in cui ci sono i mondiali o gli europei di calcio e le olimpiadi estive o invernali. No, questo non l'avevo ancora sentito nella mia vita, cioè gli anni pari si chiude in perdita, gli anni dispari in pareggio o inutile? Sì, gli ultimi anni è così, sì, è in genere così, anche se qualche anno dispari si è chiuso anche in perdita, ma insomma mai con le dimensioni degli anni pari. Sì, gli anni pari sono più difficili perché ci sono questi eventi sportivi che costano più di quello che rendono in pubblicità aggiuntiva, come diritti costano di più. Sì, però scusami, quando tu hai, non voglio entrare nel dettaglio, ma quando tu hai gli anni pari, le olimpiadi, i mondiali, cioè è vero che spendi di più perché è la struttura che esce, ma incassi anche di più in pubblicità o no? Non c'è paragone dal costo dei diritti, quanto sono cresciuti rispetto a quanto dà la pubblicità incrementale di questi eventi, non sono assolutamente in perdita. Ok, diciamo, utile netto di 5 milioni di euro. In rialzo anche i ricavi da canone dello 0,4%, i ricavi pubblicitari sono scesi dell'8,5%. Cosa vuol dire che quelli commerciali sono saliti invece dell'8,4%? Oh, si tratta di convenzioni con l'amministrazione pubblica, distribuzione di film e DVD per un video, di accordi in genere con le federazioni sportive. Ci sono diverse voci qui. C'è anche i diritti Rai venduti sui mercati, quello di cui non tutto quello che trasmette Rai ovviamente ha i diritti, però quello di quei diritti viene venduto sui mercati. I ricavi commerciali sono aumentati, la Rai ci punta tanto da aver deciso di creare una società esterna che si occuperà della commercializzazione dei diritti. Una volta c'era, si chiamava Rete 3, era stata abolita, portata all'interno, adesso viene ricreata. Allora, mentre Gubitosi, direttore generale della Rai, dice sul tetto ai manager, lui rientrerebbe nei 238.000 euro, giusto? Sì, sta lì. No, nel senso che la Rai non è né quotata né emette obbligazioni, per cui non è. No. Lui rientrerebbe nei 238.000 euro, che è appunto lo stipendio del capo dello Stato, a cui dovrebbero adeguarsi tutti i manager di società non quotate che non emettono obbligazioni. C'è un'altra cosa che mi interessa però molto, al di là della Rai. Oggi Telecom e Sky hanno firmato un accordo che consentirà dal 2015 di guardare i programmi delle reti Sky via internet, e già le agenzie titolano il superamento della parabola. Lo dico perché qualche giorno fa, il 2 aprile per la precisione, Vodafone aveva annunciato un'alleanza con Mediaset per una piattaforma di contenuti per la mobilità, quindi tablet, smartphone oppure PC. Mi sembra che, insomma, che da questo punto di vista Sky con Telecom e Vodafone con Mediaset si stiano schierando. Due domande rapidissime: qual è questa nuova frontiera? E la seconda domanda, la Rai con chi può fare alleanza? Rispondo alla seconda: può fare alleanze con chiunque, perché in questo caso non ci sono accordi in esclusiva, ma può fare benissimo anche con Telecom e Vodafone. La prima domanda è una bella domanda e difficile rispondere in sintesi dove si sta andando. Io non credo che sia superata la parabola, così come non si è superata ancora l'antenna televisiva del digitale terrestre. Si tratta di offerte dati a una minoranza, una nicchia di mercato però interessante, che ha la banda larga fissa a casa e per il quali avere l'offerta di Sky o l'Infinity, cioè l'offerta di Mediaset per Vodafone, costituisce un motivo per avere un abbonamento con Vodafone piuttosto che con Telecom Italia o con TIM. Però dici, parlare di superamento della parabola è ancora presto ed eccessivo. Sì, perché in Italia il 37% della popolazione non ha ancora accesso a internet. La banda larga non riguarda la metà degli italiani. E poi bisogna sempre ricordarsi, anche se non si dice mai, che se io col mio televisore mi collego a internet o col PC, eccetera, oltre a pagare Sky, eccetera, pago la connessione, mentre la televisione non la pago, la trasmissione non la pago. Questo non va mai dimenticato. Hai ragione, anch'io sono sempre molto prudente quando sento proclami entusiastici nel mondo della net economy. Adesso viene superata la parabola. Grazie comunque a Marco Mele, massimo esperto italiano dei conti della RAI e dei sistemi di informazione. Adesso passiamo a un altro massimo esperto sui manager e non tanto sugli stipendi. Abbiamo già spiegato molte volte che il tetto di 238.000 euro non riguarderà le società quotate e quelle direttamente o indirettamente controllate dal Tesoro, che sono soggetti dal tetto definito dai precedenti governi sulla base dello stipendio del Presidente della Corte di Cassazione. Però ne sono comunque escluse Eni, Enel, Finmeccanica perché quotate, e Ferrovie, Cassa Depositi e Prestiti e Poste perché emettono comunque obbligazioni. Dopodiché la nostra testa è una giungla, perché poi lo stesso governo Renzi aveva detto: attenzione, anche per le società controllate dalle pubbliche amministrazioni vogliamo una sforbiciata del 25% in occasione del rinnovo degli organi. E gli stipendi vengono distinti in tre fasce, si va dalla prima fascia, il tetto è pari al 100% dello stipendio del presidente della Cassazione, 311.000 euro, la seconda fascia il tetto è l'80%, la terza fascia è al 50%. Ma Gianni Dragoni del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Iniziamo con questa telenovela, tanto la dovremo scoprire entro fine settimana. I nomi che circolano per Eni, Enel, Finmeccanica, direi che ci possiamo fermare qua, e anche Rai se vuoi, prego, vai. I nomi che circolano sono ancora molti, perché manca ancora qualche giorno e sono le ultime ore, insegna l'esperienza, quelle decisive in cui arrivano anche dei nomi a sorpresa. Credo che succederà così anche in questa tornata. Quello che comunque è un orientamento che dovrebbe affermarsi è che ci sarà, dopo 9 anni di sostanziale stabilità, eccetto la Finmeccanica che ha avuto ha cambiato vari vertici in questo periodo, però ci dovrebbero essere dei cambiamenti importanti. C'è ancora, soprattutto all'Eni e all'Enel, che sono i due campioni nazionali dell'energia, ma anche hanno anche una grande potenza economica e finanziaria, e anche in Finmeccanica. Questo almeno è l'indicazione che chi lavora le nomine lascia trapelare. Ecco, pochi istanti fa il ministro Piercarlo Padoan ha detto le persone saranno competenti e in alcuni casi nuove. Per competenti, sì, intendo il modo con cui hanno gestito le responsabilità precedenti, in cui hanno avuto successo e da dove vengono. Comunque possiamo dire almeno una cosa, tanto continueremo con questa totonomine, che difficilmente resteranno i vertici attuali su Eni, Enel e Finmeccanica? Sì, credo che questo, gli amministratori delegati di Eni ed Enel, c'è ancora una possibilità, stanno cercando di un'ipotesi che possono forse fare i presidenti. Io credo che le possibilità comunque siano, le probabilità siano molto limitate, quindi dovrebbero cambiare. A Finmeccanica dovrebbe rimanere il presidente Gianni De Gennaro, che è arrivato luglio dell'anno scorso, l'ex capo della polizia, mentre anche lì si va verso un ricambio dell'amministratore delegato Alessandro Panza, che è in carica da poco più di un anno, ma sembra che anche lì ci sarà un ricambio. Poi circolano tanti nomi: Monica Mondardini, amministratore delegato del gruppo Espresso CIR, De Benedetti, che ieri ha incontrato Renzi, è indicata come una probabile candidata ad amministratore delegato delle Poste, l'altra grande azienda sotto nomina. Si parla anche di Francesco Caio, che ha guidato Avio, potrebbe andare a Terna, ma è un nome importante tra quelli che girano. Si parla di possibili nomi interni, direttori generali che salgono, all'Enel Starace, Francesco Starace di Enel Green Power, ma sono alcuni nomi, ce ne sono anche tanti altri e sicuramente. Comunque entro il fine settimana, forse anche venerdì, venerdì, ma credo sia più facile che si vada domani, la settimana, perché Padoan è a Washington domani e torna domenica. Grazie a Gianni Dragoni, ancora pochi giorni, e chi fosse interessato al destino dei vertici, delle partecipate, avrà la risposta. Intanto da Sebastiano Barisoni gli auguro una buona serata, ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.